ridurlo a un problema di criminalità. Non siamo dalla stessa parte. Il governo Meloni prende le distanze dai femminicidi, ma il suo programma è quello di rinforzare l'ordine patriarcale, di cui i femminicidi sono il prodotto. Noi ci vogliamo vive e libere, per questo ci ribelliamo contro la violenza maschile di genere e contro tutte le condizioni sociali e politiche che la riproducono. Giorgio Meloni non è dalla parte delle donne che intraprendono percorsi di fuoriuscita dalla violenza, parla di rifinanziare i centri di violenza e le case rifugio, ma li riduce a un mero servizio e tace sui criteri con cui questi fondi vengono assegnati. La logica dei bandi nei fatti favorisce associazioni del terzo settore che non hanno esperienza in materia di violenza di genere, che riproducono dinamiche di vittimizzazione secondaria che non rispettano l'autodeterminazione delle donne che subiscono violenza. Quando non associazioni appartenente schierate in difesa della famiglia o accreditate come recupero di uomini maltrattanti, che spiegano per la mediazione familiare, ovvero perché il violento continua a restare in contatto con la donna e con i figli. Non siamo tutti dalla stessa parte di fronte alla disastrosa gestione della pandemia e alla guerra e i suoi effetti, che stanno colpendo in modo durissimo le condizioni di vita e di lavoro di donne e persone LGBTQIA+. A causa dell'inflazione i nostri salari vengono meno e le precarie sono chiamate a sacrifici mentre si sostengono imprese e padroni. La logica nazionalista rinforza rigide divisioni sessuali che imbrigliano ancora di più le donne al lavoro riproduttivo. Le profughe sono messe al lavoro per salari ridicoli, per fare di fronte alla carenza di manodopera dei settori essenziali. Non siamo tutte dalla stessa parte, perché la nostra autonomia economica non è garantita né dalla coercizione al lavoro in cambio di sgravi fiscali alle aziende, né dal reddito di libertà, una misura ridicola di 400 euro al mese che non ci permette di sopravvivere, a cui non tutte le donne che subiscono violenza possono accedere. Chi toglie il reddito non è dalla parte delle donne, perché non ricorda la rete dire: la povertà e la dipendenza economica sono i primi alleati della violenza di genere. L'attacco al reddito di cittadinanza è un attacco